известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. In questi giorni, nei quali ricordiamo la Shoah, mi ritornano alla memoria le immagini raccolte nelle ripetute visite mie ad Auschwitz, uno dei lager nei quali si è consumato l'eccidio efferato di milioni di ebrei, vittime innocenti di un cieco odio razziale e religioso. Mentre rinnovo con affetto l'espressione della mia piena e indiscutibile solidarietà con i nostri fratelli destinatari della Prima Alleanza, auspico che la memoria della Shoah induca l'umanità a riflettere sulla imprevedibile potenza del male quando conquista il cuore dell'uomo. E allora, nell'epilogo di alcune settimane così turbolente, insomma, da provocare addirittura l'evocazione di crisi storiche nel rapporto difficile, no, tra la Chiesa Cattolica e gli ebrei, Benedetto XVI ha ufficializzato, ha sancito il viaggio che compirà in Israele nel prossimo maggio, tra l'altro sulle orme di quell'altro viaggio memorabile di Giovanni Paolo II, no, quello che culminò con la visita al Muro del Pianto. È un evento nel quale in un certo senso confluiscono interrogativi, argomenti di discussione vasti, insomma, che toccano certamente la storia, la politica, la dottrina, la politica internazionale, perché c'è un nome nuovo in circolazione, quello del nuovo Presidente degli Stati Uniti d'America, che probabilmente in tutto questo discorso alcuni echi li risveglia. Ci sono anche discorsi di politica interna ai rapporti della israeliani nel tentativo di ridisegnare i propri equilibri. Ci sono tante cose che riguardano anche equilibri all'interno dell'ebraismo, ma noi di tutto questo vogliamo parlare con due ospiti che abbiamo chiamato per l'occasione, che sono Sandro Magister, per tanti anni il vaticanista dell'Espresso, oggi è il curatore del blog www.chiesaespressoonline.it, che tra l'altro gode di versioni in spagnolo, inglese e francese, ed è anche il curatore di un volume uscito da Scheiwiller che si chiama Omelie, l'anno liturgico narrato da Joseph Ratzinger, Papa, ed è in linea con noi. Sandro Magister, buon pomeriggio. Sandro, buon pomeriggio a voi. C'è chi ipotizza, chi la sa più lunga di noi, diciamo così, che suggerendoci alcuni spunti per la lettura di questo discorso e del suo effetto pratico, comunque l'annuncio di questo viaggio, ha voluto dire e mi ha suggerito: prova a parlare con Magister anche degli equilibri interni al rabbinato, per esempio che cosa succede fra rabbini americani e rabbini di Israele, e come la Chiesa in un certo senso possa addirittura giocare un ruolo in questi equilibri che metterebbero, diciamo, in una zona più progressista gli americani e in una zona naturalmente più conservatrice i rabbini di Israele. Ci può essere addirittura un senso così difficilmente intuibile, difficilmente leggibile, almeno dal di fuori, in questo viaggio, oppure siamo a tutti gli effetti nel famoso epilogo di una crisi complicata, insomma, del grande disaccordo, il grande problema delle Frevriani e quant'altro si è discusso anche sulle prime pagine dei giornali? Sandro? Ma direi che il proposito di Benedetto XVI di compiere questo viaggio in Terra Santa corrisponde a un suo disegno che non ha un rapporto diretto con la questione dei Lefebvriani e con l'incidente gravissimo del vescovo negazionista. È un disegno, quello di Benedetto XVI, che ha come mira la Terra Santa, che corrisponde a una sua visione molto, molto alta, devo dire, del rapporto unico, assolutamente senza eguali, che esiste tra il cristianesimo e la fede ebraica. Un rapporto unico e senza eguali relativamente a qualsiasi altro rapporto tra il cristianesimo ed altre religioni. Cioè, questa unicità assoluta, Benedetto XVI e prima di essere Papa il cardinale Ratzinger l'ha sempre molto sottolineata, e questo viaggio è certamente in quest'ottica. Naturalmente, da parte del mondo ebraico, da parte degli esponenti soprattutto del rabbinato internazionale, ci sono diverse letture di questa linea perseguita da Ratzinger, Benedetto XVI, da diversi anni, e ci sono letture che ad esempio in alcuni paesi, in particolare l'Italia, sono piuttosto negli ultimi tempi divenute critiche, divenute più resistenti a questo tipo di linea percorsa da Benedetto XVI. Si può anche dire che, dato che appunto il mondo ebraico non è immobile, si possono notare effettivamente in un mondo ebraico come l'italiano da qualche tempo delle riprese identitarie abbastanza marcate, cioè un ritorno in un certo senso all'ortodossia dell'ebraismo. Ad esempio il rabbino di Segni, da questo punto di vista, è più sensibile a questo ritorno identitario che non il predecessore Toaf. E questo e si può entrarci qualcosa la presenza di Benedetto XVI in tutto questo? Non credo che dipenda da Benedetto XVI, ma ha dei riflessi sul rapporto con il papato, che oggi effettivamente è più conflittuale che non prima, proprio perché c'è questo risveglio identitario che rafforza le diversità, naturalmente. Però in sostanza quello che mi stai dicendo è che il viaggio, questo importante viaggio annunciato dal Papa, non è solo un viaggio lineetta epilogo, come dire, un viaggio di riparazione, un viaggio per sanare, ma è anche un viaggio di proposta in un certo senso, ma anche un viaggio in avanti. Sì, io direi proprio di sì. Infatti l'idea del viaggio non è nata assolutamente in risposta alle turbolenze disgraziate di queste ultime settimane, ma è nata da una visione molto precedente. E vorrei far notare anche una cosa: certe volte non si avverte quanto di audace dice questo Papa, magari nei momenti in cui il clamore soverchia le sue parole. Ricordo delle parole che ha detto all'Angelus del 25 gennaio, quindi attenzione, nel pieno della polemica violentissima sulle dichiarazioni del vescovo negazionista, certo, e della crisi della revoca della scomunica alle Febriani. Ecco, proprio quel giorno, il 25 gennaio, che era il giorno della festa della conversione di San Paolo, Benedetto XVI, parlando ai fedeli in piazza San Pietro, disse che propriamente per San Paolo il termine conversione è improprio. Perché, e aggiunse, perché era già credente, era ebreo fervente e non dovette abbandonare in niente la sua fede ebraica per aderire a Cristo. Ora, questo non è qualcosa così. Non è un passo da poco. Non è un passo da poco, a proposito appunto anche di quelle polemiche scagliate contro di lui, a proposito di quella preghiera che veniva vista come una preghiera per la conversione degli ebrei. Beh, insomma, la sua visione della conversione non è così banale come uno può immaginare. Oltretutto, mi sembra di capire che tu metti nel mucchio anche quindi tutte quelle, no, quella certa caccia magari un po' scandalistica, no, alla provocazione, alle reiterate, addirittura storiche provocazioni lanciate dal soglio papale nei confronti degli ebrei, il non nominarli, insomma tutto questo scandalismo, mi sembra di capire che secondo te non è certo nel livello, nelle intenzioni del Papa, che viaggia su un'altra sintonia. Intenzione del Papa, anche se naturalmente attorno al Papa ci sono tante realtà che danno esca notevolmente a questo tipo di polemiche. Non c'è dubbio che, io adesso non l'ho ancora detto, ma il Papa ha avuto la sfortuna in tutto questo ultimo periodo di avere a che fare con un governo della Chiesa centrale assolutamente inadeguato a quelle che sono le sue visioni. Assolutamente inadeguato, incapace e dannoso. Ecco, ci sono stati dei disastri autentici di governo e di comunicazione che naturalmente hanno fortemente danneggiato la linea del Papa. Questo Papa è un Papa certamente non di governo, che non si occupa di gestire la macchina organizzativa della Chiesa. Quindi c'è il rischio che qualcuno lo faccia per lui, in sostanza. Lui è un Papa di parola, certo. Solo che se le parole vengono soverchiate da atti che non corrispondono alle parole stesse, naturalmente la sua azione è notevolmente danneggiata. Abbiamo chiamato anche Anna Foa, docente di storia moderna alla Sapienza, da sempre anche studiosa della storia degli ebrei. Abbiamo registrato un paio di domande con lei, facciamo ascoltare la sua prima risposta, proprio interrogata riguardo ai viaggi di altri pontefici in Israele e alla messa in relazione di nuovo del imminente viaggio di Ratzinger con le polemiche sui lefebriani. Ascoltiamo. Viaggi di pontefici in Israele ci sono state, c'è stato quello di Paolo VI e poi soprattutto importantissimo quando già era stato avvenuto il riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Santa Sede, in quando già c'erano già relazioni diplomatiche, è avvenuto il viaggio di Giovanni Paolo II, che è stato un viaggio molto importante, che ha, direi, innanzitutto cambiato i rapporti, cioè le aspettative del mondo ebraico sul passato, e poi ha anche stretto ancora moltissimo i rapporti fra la Santa Sede e Israele, incrementato il dialogo. La crisi in cui il dialogo si è trovato negli ultimi tempi, durante l'ultima fase del pontificato di Papa Ratzinger, in questi ultimi momenti, è dovuta soprattutto all'atteggiamento verso i lefebriani, prima la questione della preghiera e poi la questione del vescovo e della riammissione di Williamson. Mi sembra che abbia reso in qualche modo del suo sbocco finale, che è uno sbocco estremamente in cui la Chiesa ha accettato tutte le richieste e chiarimenti che venivano dal mondo ebraico. Lo stesso Dabino Rosen, che era molto perplesso, ieri si è dichiarato completamente soddisfatto dell'ultima dichiarazione del Papa agli ebrei americani, e ha reso in qualche modo questo viaggio, che era un po' in forse, era in forse anche durante la vicenda di Gaza, era in forse dopo le prese di posizione alla Santa Sede molto dure sulle vittime civili a Gaza, era in forse con queste vicende, lo ha reso in qualche modo importante, più importante e più urgente. With gorillas down my street, from my window I'm staring while my coffee goes cold. Look over there, where? There's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Allora, dopo l'intervento di Anna Fo, torniamo a parlare invece in diretta con Sandro Magister. Sandro, ci sono anche domande naturalmente da parte dei nostri ascoltatori, con i vari mezzi di connessione che ci sono ormai consentiti. Per esempio, un ascoltatore si chiama Mukeba, ti chiede, il Papa deve esprimere, a tuo parere, a Israele, in occasione del viaggio, il proprio rincrescimento per i recenti disguidi, ovvero dopo tutto quello che ha detto dobbiamo aspettarci anche una versione vagamente penitenziale di Benedetto XVI in questo suo viaggio, che comunque ha degli imbarazzi, ha delle asperità da superare per i secoli che abbiamo alle spalle, in un certo senso. Ma guardi, io penso che durante il viaggio Benedetto XVI non accentuerà troppo questo tipo di mossa penitenziale che forse qualcuno, anzi magari molti, si aspettano da lui. Io credo che la sua intenzione sia quella di volgere fortemente in positivo quello che è il cammino comune e anche magari certe volte accidentato che c'è tra ebrei e cristiani assieme. È un Papa ottimista, ma non soltanto ottimista di sentimento, ma anche ottimista di ragione. E credo che vorrà imporre questo tipo di linea, non vorrà far pesare troppo, e l'ha detto anche ieri parlando ai rabbini americani, non vorrebbe far pesare troppo i vincoli del passato sugli atti che si compiono nel presente. Il passato è stato consegnato in qualche modo ad atti penitenziali fortissimi, che tra l'altro il Papa ieri ancora ha reiterato, e quindi credo che sia la pagina più luminosa che egli voglia aprire una volta girata la pagina oscura. questo un po'. Se mi posso permettere, proprio nel giudizio che sta esprimendo in relazione a questo viaggio, mi sembra di intuire una certa ammirazione, insomma un gradimento per l'iniziativa presa da Ratzinger, una soddisfazione, seguendolo giorno per giorno nel suo percorso. Sì, io direi di sì, questo viaggio credo proprio che sia una cosa giusta, insomma. Una rivelazione ulteriore di quello che è il nucleo portante di questo pontificato, che è un pontificato giocato in larghissima misura sulla parola come trasmissione di proposte. È un Papa che annuncia, che predica, che ragiona, chiama a ragionare, chiama a riflettere. E quindi non credo che possa essere visto questo viaggio come qualcosa di riparatorio, ma piuttosto come qualcosa di molto propositivo. Ecco, qualche problema potrebbe, Sandro, nascere forse o no, seguendo quello che un'agenzia 5 minuti fa ha appena annunciato, ovvero che nel viaggio del Papa in Terra Santa sarebbero previsti incontri anche con i leader musulmani, oltre che ebraici. Lo dichiara al SIR, il Servizio Informazioni Religiose promosso dalla CEI, il Monsignor Antonio Franco, nunzio apostolico in Israele. È un aspetto, come dire, complementare, che ha una sua armonicità, o potrebbe essere una fonte di imbarazzi? Ma io direi che anche questo rientra moltissimo nella visione di questo Papa, e sarebbe appunto, rispetto ai viaggi precedenti di suoi predecessori, sarebbe una novità molto forte. Oltretutto, certo, una novità certo, già sicura, certo. E che nella fase del viaggio iniziale che sarà trascorso in Giordania egli visiterà una moschea, come ha già fatto a Istanbul con la certo, moschea blu, che è rimasta certo, impressa come immagine praticamente negli occhi di tutto il mondo. Certo. Ecco, ora da questo punto di vista, se c'è un Papa che non difetta di chiarezza per quanto riguarda il suo giudizio sull'Islam e sulle sfide che l'Islam lancia al mondo odierno e sulle sfide che lo stesso Islam al suo interno deve affrontare nei confronti della modernità, è un Papa che ha già detto cose straordinariamente eloquenti e anche molto taglienti. Quindi quando un Papa anche in silenzio si reca in una moschea, si sa benissimo cosa dietro quel silenzio c'è. Quello che è capitato a Istanbul infatti era esattamente questo, certo. Non era un Papa equivoco, era un Papa che si sapeva perfettamente che cosa pensava, anche quando in silenzio era il raccoglimento rivolto alla Mecca. Va bene. Questo, quindi è appunto un'altra delle novità che possiamo analizzare assistendo a questo viaggio. Grazie a Sandro Magistra per averci aiutato così a decifrare anche i significati più ampi di questo annuncio, che ha destato sensazione, sorpresa anche e entusiasmo negli ambienti cattolici. E abbiamo ancora una domanda, un intervento di Anna Foa. Le abbiamo chiesto semplicemente come, a suo parere, come verrà accolto Benedetto XVI in Israele. Ascoltiamo. Secondo me verrà accolto con grande attenzione, con grande curiosità, proprio per questa tensione, per queste aspettative, questa crisi dei rapporti, e anche con grande attesa e speranza rispetto al futuro del dialogo. Quando alcuni osservatori, commentatori più o meno attrezzati, più o meno autorevoli della Chiesa, spesso osservano quasi come se ci fosse un pregiudizio anti-ebraico di questo Papa rispetto magari a Giovanni Paolo II o ad altri papi precedenti, lei che cosa risponde? Ma io non ho mai pensato che ci fosse un pregiudizio anti-ebraico, ho pensato che ci sono state sicuramente delle difficoltà di comunicazione, e ho pensato... il termine difficoltà di comunicazione è molto ampio, e ho anche pensato che forse il problema dei tradizionalisti, il problema dei lefebriani, il problema della ricomposizione della Chiesa è stato per questo pontefice più importante, almeno fino al punto in cui le dichiarazioni di Williamson hanno fatto emergere tutto alla luce del sole, reso impossibile il compromesso quasi, è stato più importante del problema del dialogo col mondo ebraico. Jesse James and Frank James, Billy Kidd and all the rest, there's supposed to have been some bad cats out of the west, but if they could have dug me and my gangster ways, they would have hung up their guns, child, and made it to the grave. in a bar. Girls from near and far say he's a gangster of love. Jump on my white horse, ride across the borderline. Roll 55 girls, kiss them all at the same time. Take 25 or 30, load them all on a freight. There's a $1 million reward for me and each and every state. In a bar, girls from near and far say he's a gangster of love. Yeah! Presidente 44. Obama alla Casa Bianca. Il presidente 44 è atteso, le telecamere si sono per un attimo distratte dall'attività, purtroppo tutt'altro che allegra della mattina, che è stare puntate sulle fiamme che ancora impazzano a Buffalo, dove è caduto questo aereo della Continental, un aereo, un volo interno americano con un totale di 50 vittime. Più tardi vi daremo al riguardo qualche informazione in più, e appunto Fox, CNN, le altre televisioni di informazione si sono adesso connesse con la Casa Bianca, dove sono attese alcune dichiarazioni del Presidente riguardo all'incidente aereo. Forse da ascoltare con curiosità, più che altro per capire che cosa un Presidente americano possa avere da dire su un incidente aereo. Comunque le ascolteremo, vi faremo sapere. Invece la notizia, un altro disastro, ma per fortuna sicuramente meno grave, soprattutto nel costo delle vite umane, perché nessuno c'è morto, anche se in parecchi, come dire, ci sono rimasti molto male. È l'ennesimo ritiro nella formazione dell'amministrazione Obama di Judd Gregg, che lo stesso Barack Obama ha definito una sorpresa. È stato a lungo indicato, pare su sua stessa proposta, il repubblicano Judd Gregg, quindi protagonista di un possibile passaggio bipartisan di questa amministrazione, come segretario al commercio, con lo stesso segretariato che era stato affidato a Bill Richardson e che poi era caduto per il ritiro dello stesso Richardson per motivi fiscali. Sentiamo un attimo Barack Obama che sta cominciando a parlare. Our thoughts and prayers are with the families and friends who lost loved ones. Dai segni del lutto e della preghiera da parte della Casa Bianca. To the brave first responders who arrived immediately to try and save lives and who are still on the scene keeping people safe. You know, tragic events such as these remind us of the fragility of life. And the value, in bocca una svolta, come dire, psicologica della lettura incidente. Dice: questo incidente ci ricorda la fragilità della vita. Husband on 9/11 and became a tireless advocate. E evoca la notizia più clamorosa relativa a questo incidente, ovvero che una delle vittime è la moglie di una vittima dell'attacco alle torri dell'11 settembre. And launch a scholarship in his memory. So she was an inspiration to me and to so many others, and I pray that her family finds peace and comfort in the hard days ahead. E poi annuncia con la prontezza di cui in questi casi veramente solo dei politici americani possono essere capaci, l'istituzione di una fondazione, una borsa di studio in nome di queste vittime, come dire, del modo di vita, dello stile di vita americano contemporaneo, con tutta la fragilità e l'esposizione a rischi connessi come un qualsiasi volo interno, o nella fattispecie invece dell'11 settembre, il risultato di una questione ben più grossa, di ben altra portata. Barack Obama sta continuando a parlare. Come vi dicevo, comunque, la questione con cui non riesce a chiudere i conti è l'assegnazione di questa segretariato al commercio. Né Bill Richardson né ora Judd Gregg, che si è alla fine ritirato, si è sfilato dicendosi in totale disaccordo d'accordo con gli indirizzi che la Casa Bianca stava prendendo sulle politiche economiche, sono andate in porto. Bisognerà fare un nuovo tentativo, nuovi imbarazzi quindi alla Casa Bianca, che ieri ha vissuto da questo punto di vista un'altra giornata così piuttosto negativa. Se non altro, l'unica buona notizia, se tale può essere considerata, ma i suoi ammiratori sono tanti, è invece la conferma di Leon Panetta a direttore della CIA, il più bizzarro, anche il più inatteso dei possibili direttori della CIA, ex capo dello staff di Bill Clinton. Adesso a tutti gli effetti tocca a lui occuparsi della agenzia più famosa del mondo. Mentre Barack Obama continua il suo discorso, noi però ci spostiamo invece, creando così una linea immaginaria fra Milano e Shanghai. Se si crea questa linea immaginaria, già avrete capito che si parla di Expo. Lara Vecchio ha realizzato per noi una intervista a Zheng Xiling, uno dei più importanti architetti e teorici cinesi. È nato nel Sichuan nel 41, è uno dei protagonisti dei cambiamenti urbanistici di Shanghai in vista dell'Expo 2010 ed è passato da Milano, rivelando anche una inattesa conoscenza d'italiano. Gli abbiamo chiesto, e poi sottoporremo i suoi pareri al visto di un nostro ospite abituale, gli abbiamo chiesto come è cambiata Shanghai in vista dell'Expo. Abbiamo usato questa occasione per fare più infrastruttura, per fare più quello di sistema di traffico, anche per fare la città più umafore, eccetera. Siete pronti per Expo 2010? Ogni Expo deve fare molto velocemente, anche un'ora prima di cerimonia di apertura ancora c'è lavoro, eccetera. Quindi a Shanghai anche perché dobbiamo fare tutto più velocemente. Ora ancora c'è qualche padiglione non è progettato, quindi anche dobbiamo fare più veloce. Esiste un filo che lega sia in entrata che in uscita le esperienze dei vari Expo. Per esempio, voi che cosa potreste regalare a livello di esperienza all'Italia che verrà dopo di voi? Milano ha più esperienze da Shanghai, perché già da triennale Milano c'è questa esperienza, anche triennale è una parte di Expo, quindi a Milano c'è questa grande fiera, anche c'è tutto lavoro per mostra, eccetera. Ma noi chiamo in causa a questo punto Luca Molinari, architetto, critico e anche amico della nostra trasmissione, interviene spesso per aiutarci a capire, a districarci negli scenari dell'urbanistica, dell'architettura contemporanea. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio, come sta? Tutto bene? Tutto bene, ma vogliamo capire una cosa da te. Prima di tutto, insomma, da una personalità di rilievo come quella che abbiamo appena ascoltato, ci sono stati degli omaggi a Milano che raccoglierà il testimone da Shanghai per questa Expo, ma da parte sua ci è venuta questa domanda che vogliamo girarti, che ci sembra particolarmente interessante, ovvero: a Shanghai hanno fatto un Expo che temo sarà monumentale, ma anche assai impermanente, così questi padiglioni che pare poi li smontano. Sì. In una città come Milano, che si è capito, insomma, i soldi ce li amo, un po' fatica, insomma, poi l'Italia in questo momento ha l'economia come è messa, ma non si potrebbe, anche dal punto di vista proprio operativo, più interno alla vostra professione, pensare di usare la città anziché magari riempirla di scatoloni nuovi, cioè provare a funzionalizzare la città all'Expo anziché viceversa? Questa direi è la domanda centrale. La discussione che c'è in questo momento punta a questo, a guardare all'Expo come a un passaggio temporale che ti permette di ragionare su Milano da 2016 in poi. Quindi le infrastrutture, il tema degli spazi pubblici, il verde, i collegamenti. Il tema dei padiglioni negli ultimi Expo è sempre stato un tema relativamente poco importante, perché gli Expo venivano smontati o rivenduti subito, e quindi il tema infrastrutturale degli spazi pubblici è diventato sempre centrale. Su Milano è ancora più importante, perché è il grande nodo debole, di debolezza. Quindi credo che la riflessione dell'Expo deve essere proprio questo, considerare l'Expo come motore di ricerca per lo sviluppo della città. Certo, certo. I riferimenti che faceva Zheng Xiling addirittura alla Triennale, no? Viene come sì, da Triennale da... aprirà tra l'altro un suo padiglione, una sua sede a Shanghai in occasione dell'Expo, e quindi è per questo che penso la conosca anche molto. Viene come da pensare, per esempio, si potrebbe pensare a un'Expo di Milano fatta quindi in spazi che già ci sono, no? C'è la Milano industriale, ci sono sicuramente centri di recupero possibili. Viene quasi voglia di pensare a una città che, come dire, ritrova vita in certi suoi punti magari parzialmente abbandonati, no? Lasciati, dimenticati. Che dici? Sarebbe bellissimo. Diciamo che Milano ha un sistema di infrastrutture pubbliche, di luoghi per la cultura, per l'incontro, già molto sviluppati e presenti. Quindi da quello che ho visto io fino a questo momento sull'Expo, si tratta di pensare al campus, diciamo, dei padiglioni come qualcosa di molto piccolo rispetto a quello che sarà tutto il sistema degli eventi. E quello che verrà poi fatto, di fatto sarà una grande urbanizzazione pensando a quello che sarà l'uso post-Expo. Quindi una nuova area, certo, della città, certo, fondamentalmente. Ecco, per concludere, il tuo sentimento riguardo all'intera iniziativa in questo momento qual è? Ti sembra che si sta andando dalla parte giusta? È molto delicato, c'è un strano masochistico gioco di guerra tra poteri che non aiuta la cosa. Io so che bisogna partire molto in fretta perché i concorsi per il master plan dell'Expo devono essere fatti nei prossimi mesi, però ad esempio hanno appena attivato la commissione dei saggi, diciamo, di questi architetti internazionali che consiglieranno l'Expo su come affrontare le cose. Diciamo che siamo un po' al pelo, speriamo di non comportarci come in altre situazioni tipicamente italiane. Va bene, grazie a Luca Molinari e al riferimento così, al pelo tipicamente italiano. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smelling, lilac skin, your flame in me. Twenty-nine pearls in your kiss, a singing smile, coffee smell and lilac skin, your flame in me. I'm only here for this moment. I know everybody here wants you. Tocca a voi, ci dobbiamo sbrigare, dobbiamo fare ancora un sacco di roba, non ce la faremo mai. Proviamo. Allora, Express Yourself, eccola l'offerta che vi abbiamo fatto questa mattina, perché è venerdì, anche oggi, anche qui oggi si parla di sport. Forse sport è una parola grossa, no? Abbiamo evocato le storie di Michael Phelps, pizzicato alle prese con la marijuana, lo sa tutto il mondo, e anche di Alex Rodriguez, A-Rod lo chiamano gli americani, un superstar del baseball che ha candidamente ammesso di avere usato steroidi perché dice che lui era molto innocente quando l'ha fatto, aveva 28 anni, già guadagnava 200 milioni di dollari. Insomma, tutto ciò fa pensare che anche il luccicante sport americano, no, sia alla fine più che altro spettacolo e anzi poco altro. Vi abbiamo chiesto se siete d'accordo, insomma, se è uno sproposito continuare a parlare di campioni dello sport come modelli per la gioventù, se è tutta retorica quella dei fenomeni, del sacrificio, no, delle Olimpiadi, no, invece questo è l'abbiamo chiamato un mondo Pantani, dove c'è gente che sbaglia, ma ciò non toglie che siano campioni lo stesso, però sbagliano, gente umana, appunto. E allora però l'argomento è piaciuto molto agli ascoltatori. Devo dire che prevalgono nettamente i pareri di maschi, di uomini, ma d'altronde lo sport è forse argomento più maschile che femminile. Adesso qualcuno si arrabbierà. Allora, certo, cominciamo da Fabrizio, che è durissimo e dice: lo sport in genere, per quanto mi riguarda, a certi livelli supera i limiti della decenza. Ormai tutto è incentrato attorno ad un ritorno economico. Poi c'è Simone che cita Maradona, e a Maradona mi alzerei in piedi. Ah, quella è una bella citazione. E dice: io non dovrei essere l'esempio di nessun bambino, ogni piccolo dovrebbe avere un unico esempio, il proprio padre. Grande pibe. E poi c'è un'altra che ti sottopongo, perché prego, viene da Daniele, che poi è il mitico Dan che ci scrive spessissimo, sì, dal primo giorno, grande appassionato, conosco, di basket, conosco, che per l'occasione rispolvera Tony Kukoc, grande giocatore che conosco persino io, che non so nulla di basket, scherziamo, e dice: ricordo che partì a giugno da Treviso magro come un'acciuga, e a ottobre lo rividi in TV e sembrava maciste. Fatto un po' di palestra, in America uno va a fare la palestra. Dan, che sospetti? Vado io, allora Antonio dice: è molto romantico, e per questo in cuor nostro ci piace pensare a questi campioni come a dei nuovi eroi, ma purtroppo il denaro che gira nello sport inquina la favola. Renzo dice che mi sembra ci sia una enorme differenza tra le due storie, differenza quindi. Phelps dice: ha semplicemente fatto quello che fa la maggioranza dei suoi coetanei a quella età, si è presa una serata libera, insomma. Rodriguez invece si è dopato per battere la pallina, no? Nel primo caso si tratta di una leggerezza, conclude Renzo, che non inficia la sua immagine sportiva, nel secondo caso si tratta di dolo da reprimere severamente. Come ci penseranno i tifosi dello Yankee Stadium, che non sono mica tenerini? Prego, prego. Allora, qui ci sono sempre tantissimi altri messaggi. Allora, Simone è provocatorio, ma secondo me neanche troppo, perché dice: il problema è la soluzione. Liberalizziamo il doping, mettiamo finalmente questi poveri atleti in condizione di gareggiare ad armi pari. Poi c'è Roberto, che forse è il più simpatico, che dice: ricorda un'acidissima puntata di South Park, ricorda persino il titolo, Up the Down Asteroid, Forza Asteroidi nella traduzione italiana, ricorda Jimmy, uno dei protagonisti di queste competizioni nelle quali vuole vincere a tutti i costi e quindi si dopa, però durante la premiazione finale confessa, e di fronte ai testimoni dell'evento, che dice: guarda caso sono giocatori di baseball ultra dopati. Il finale della sua risposta è straordinario, dice: fossi la Giamaica ne approfitterei per dare la cittadinanza onoraria a Phelps. Il baseball c'ha una reputazione peggio del ciclismo italiano. Ne fanno tutti i colori. È vero. Se non sono droghe, sono vendersi le partite. Insomma, Riccardo dice: nessuno è mai stato sempre un campione. Tutti hanno avuto alti e bassi, ma sono sempre campioni, come Diego, come Valentino, come MJ, come John Alomu. Prendiamo l'eroe che è in ognuno di loro reso più umano dagli errori. Perdona. Paolo, concordo, non vedo come lo sport agonistico ai massimi livelli possa essere un modello educativo per i giovani. Perché non andate a vedere lo sport giovanile, cari ascoltatori? Vi garantisco che è uno spettacolo. Matilde, mai nessun campione sportivo potrà essere un modello, perché lo sport si deteriora non appena subentra l'agonismo. Io non so se è l'agonismo. È un'altra roba, è un altro sport. Dai, ancora un paio. Ce n'è uno triste, amaro, di Gianni, che è anche didattico a suo modo, e dice: mia figlia durante le Olimpiadi di Pechino si è esaltata a vedere le gare di Phelps e mi ha chiesto di portarla a Roma in agosto, manca pochissimo, per i mondiali di nuoto. Non credo che lo farò. Quindi duro, durissimo Gianni. Giovanni, a 20 anni, sotto i riflettori di tutto il mondo, sportivo e non, addossarsi 1000 responsabilità, non è facile. Insomma, anche qui un po' di perdonismo. Omar, qualsiasi sportivo venga pizzicato una volta per l'uso di stupefacenti o sostanze dopanti non dovrebbe più essere tesserato. Ci va pesante. Ettore, sono gli steroidi il nuovo modello per i giovani sportivi. Un tempo si vinceva per fama o per gloria, quindi il modello è diventato addirittura negativo. E questo sembra un ragionamento estremo, purtroppo anche, come dire, ascoltabile, no? Che ha a che vedere con la realtà. 360 gradi. Diamo almeno news, un paio di notizie, dai velocemente, sensi, prima di chiudere. Vai. Allora, voliamo nella zona caldissima, come sempre, tra Gaza e Israele. Dunque, oggi c'è stato pochissimo fa un morto e tre feriti un bilancio di un raid aereo israeliano avvenuto nel sud della striscia di Gaza in risposta al lancio di due razzi nella striscia, dalla striscia a Sdredot, la città israeliana che sta lì al confine. Secondo fonti locali l'uomo era un militante di Hamas. Ma la notizia invece da Israele più interessante è che sembra che alla fine Kadima, il partito che ha vinto sulla carta le elezioni con il maggior numero di seggi, 28 a 27 nei confronti del Likud, delle elezioni di martedì, però Kadima potrebbe finire all'opposizione, perché la Livni, secondo delle fonti che filtrano dal sito web degli attivisti del partito, ha spiegato insomma che finire in una coalizione con Netanyahu costringerebbe la Livni a perdere la sua fisionomia morale, e quindi insomma forse è meglio stare all'opposizione come unica via onorevole in questa situazione. È venerdì anche per noi. Sì, mi ero incartato in questa agenzia, non riuscivo più ad uscirne. Grazie a Dio, è venerdì. La storia è complicata, tecnicamente abbastanza inesplicabile, ma tanto ne parleranno a più non posso i telegiornali dell'aereo, di questo Havilland, un bimotore, vi garantisco, io sono stato sopra, non è che ti senti proprio sicuro, tranquillo, voli interni americani, secondo me, no, come dire, un po' far west, se ne parlerà comunque tanto in televisione, avrete modo di documentarvi, magari ci torniamo sopra quando Jefferson 2 ricomincia, ovvero lunedì. Io sono Stefano Pistolini, Emiliano Rico, che vuoi dire Emiliano? No, Rico? Semplicemente lunedì c'è anche la Pelosi qui a Roma, quindi siamo caldissimi. Gli chiediamo i voli interni. In regia oggi hanno lavorato a Roma Valerio Rocchetti, a Milano Filippo Aureggi, la mail è jefferson2@radio24.it, Facebook usatela per parlare con noi a redazione Jefferson 2 o per esprimere i vostri pareri sulla nostra bacheca che è Jefferson 2 Radio 24 Express Yourself. Andiamo in replica a mezzanotte sul podcast 24 ore, weekend inclusi, la diretta è lunedì alle 16 qui da Radio 24. Buon weekend.